Quali itinerari paralleli seguirono Bloom e Steven al ritorno? Partendo ambedue insieme, a passo normale, da Beresford Place, seguirono nell'ordine seguente Gardiner Street inferiore e media e Mountjoy Square ovest. Poi, a passo ridotto, ciascuno poggiando a sinistra, Gardiner's Place per inavvertenza, fino all'ultimo angolo di Temple Street. Poi, a passo ridotto, con l'intervallo di qualche sosta, poggiando a destra per Temple Street Nord fino a Hardwick Place. Avvicinandosi spaiati, a passo normale rallentato, attraversarono ambedue la piazzetta circolare davanti alla chiesa di San Giorgio, diametralmente, essendo la corda in un cerchio minore dell'arco da essa sotteso. Di che cosa deliberò il duumvirato durante il tragitto? Musica, letteratura, l'Irlanda, Dublino, Parigi, l'amicizia, la donna, la prostituzione, il cibo, l'influsso dei lumi a gas o delle lampade ad arco o a incandescenza sullo sviluppo degli alberi paraeliotropici adiacenti, la dislocazione da parte del municipio di secchi di sabbia per emergenza, la Chiesa Cattolica Romana, il celibato ecclesiastico, la nazione irlandese, l'educazione gesuitica, le carriere, lo studio della medicina, la giornata trascorsa, il malefico influsso dei giorni precedenti le feste, lo svenimento di Steven. Scoprì Bloom fattori comuni di somiglianza tra le loro rispettivamente simili e dissimili reazioni all'esperienza. Ambedue erano sensibili alle impressioni artistiche, le musicali a preferenza di quelle plastiche o pittoriche. Ambedue preferivano un modo di vita continentale a uno insulare, una residenza cisatlantica a una transatlantica. Ambedue abituati dalla prima educazione domestica e da un'ereditaria tenacia di resistenza eterodossa, professavano le loro incredulità in molte dottrine ortodosse religiose nazionali, sociali ed etiche. Ambedue ammettevano l'influsso alternamente stimolatore e ottundente del magnetismo eterosessuale. Divergevano le loro idee su qualche punto? Steven dissentiva apertamente dalle idee di Bloom sull'importanza dell'autosufficienza alimentare civica, mentre Bloom dissentiva tacitamente dalle idee di Steven sull'affermazione eterna dello spirito umano nella letteratura. Bloom assentiva occultamente alla rettifica da parte di Steven dell'anacronismo di datare la conversione della nazione irlandese al cristianesimo dal druidismo per opera di Patrizio, figlio di Calporno, figlio di Potito, figlio di Odisso, mandato da Papa Celestino I nell'anno 432 durante il regno di Liri, all'anno 260 circa durante il regno di Cormac MacArthur, morto 266 anno domini, soffocato da imperfetta deglutizione di alimenti asleti e inumato a Rosnary. Lo svenimento che Bloom ascriveva a inaninazione gastrica e a certi composti chimici di vario grado di adulterazione e forza alcolica, accelerata dallo sforzo mentale e dalla velocità di un rapido moto circolare in atmosfera debilitante, Steven attribuiva invece alla ricomparsa di una nuvola mattutina, osservata da ambedue da differenti punti di vista, Sandy Cove e Dublino, dapprima non più grande di una mano femminile. C'era un punto sul quale le loro idee fossero uguali e negative? L'influsso della luce a gas o elettrica sullo sviluppo degli alberi paraeliotropici adiacenti. Aveva Bloom discusso analoghi argomenti durante deambulazioni notturne in passato? Nel 1884, con Owen Goldberg e Cecil Turnbull di notte su strade pubbliche tra Longwood Avenue e Leonard's Corner e Leonard's Corner e Sing Street. E Sing Street e Bloomfield Avenue. Nel 1885, con Percy Ap John di sera, appoggiati contro il muro, tra la villa Gibilterra e la casa Blomfield a Cramlane, baronia di Uppercross. Nel 1886, occasionalmente, con conoscenze fortuite e clienti ipotetici, sulle soglie, nei salottini, nei vagoni di terza classe delle linee suburbane. Nel 1888, frequentemente, col maggiore Brian Tweedy e sua figlia Miss Marion Tweedy, congiuntamente e separatamente sul divano di Matthew Dillon a Roundtown, una volta nel 1892 e una volta nel 1893 con Julius Judah Mastiansky, in ambo le occasioni nel salottino della sua, di Bloom, casa in Lombard Street, Ovest. Quali riflessioni riguardo alla sequenza irregolare delle date 1884, 1885, 1886, 1888, 1892, 1893, 1904 fece Bloom prima del loro arrivo a destinazione? Rifletté che l'espansione progressiva del campo di sviluppo ed esperienza individuale si accompagnava regressivamente a una restrizione del dominio opposto dei rapporti interindividuali. E in quali modi? Dall'inesistenza all'esistenza venne a molti e fu in quanto uno ricevuto. Esistenza tra le esistenze, egli era con ognuno, come ognuno, con ognuno. Dall'esistenza all'inesistenza passato sarebbe, da tutti in quanto nessuno, percepito. Quale atto compì Bloom al loro arrivo a destinazione? Giunto agli scalini del quarto dei numeri dispari equidifferenti, numero 7 di Eccles Street, egli inserì meccanicamente la mano nella tasca posteriore dei pantaloni per raggiungere la chiave di casa. C'era essa? Era nella tasca corrispondente dei pantaloni che aveva indossato il giorno immediatamente precedente alla vigilia. Perché si irritò egli doppiamente? Perché aveva dimenticato e perché si ricordava di essersi richiamato a mente due volte di non dimenticare. Quali erano allora le alternative aperte alla coppia premeditatamente, rispettivamente, e inavvertitamente senza chiave? Entrare o non entrare? Bussare o non bussare? La decisione di Bloom? Uno stratagemma. Posando i piedi sul muro nano, si arrampicò sulla cancellata del seminterrato, si calcò il cappello in testa, si aggrappò in due punti in basso dove si univano le sbarre orizzontali e quelle verticali. Abbassò il corpo gradualmente per la sua lunghezza di 5 piedi e 9 pollici e mezzo, fino a circa 2 piedi e 10 pollici dall'impiantito del cortiletto, e lasciò che il suo corpo si muovesse liberamente nel vuoto, separandosi dalla cancellata e rannicchiandosi in preparazione dell'urto della caduta. Cadde egli, con tutto il suo peso noto di 158 libbre, della scala avoirdupois, testificata dalla macchina graduata automatica per la pesatura periodica nel locale di Francis Friedman, chimico farmaceutico al 19 di Frederick Street Nord, il giorno dell'ascensione ultimo scorso, cioè a dire il dodicesimo giorno di maggio dell'anno bisestile 1904 dell'era cristiana. Era ebraica 5664. Era maomettana 1322, numero aureo 5, epatta 13, ciclo solare 9, lettere dominicali CB, indicazione romana 2, periodo giuliano 6617, MXMIV. Si rialzò egli incolume da concussione, riguadagnando un nuovo equilibrio stabile, si rialzò incolume, benché concusso dall'urto, alzò il saliscendi della porta del seminterrato, applicando una forza sulla flangia libera semovente e mediante leva di primo tipo esercitata sul fulcro, ottenne un accesso ritardato alla cucina. Ecco attraverso la subadiacente retrocucina. Portò al punto di ignizione un lucifero mediante frizione, erogò del gas illuminante girando la chiavetta. Accese una fiamma alta che, regolandola, ridusse a uno stato di incandescenza quiescente e accese infine una candela portatile. Quale successione di immagini distinte percepì Steven nel frattempo? Reclino contro la ringhiera del seminterrato, percepì attraverso i vetri trasparenti della cucina un uomo che regolava una fiamma gas di 14 candele. Un uomo che accendeva una candela da una candela, un uomo che si toglieva in successione ambo le scarpe, un uomo che usciva dalla cucina tenendo in mano una candela. Riapparve l'uomo altrove. Dopo un lasso di 4 minuti, la luce fioca della candela fu percepibile attraverso il vetro semitrasparente e semicircolare sovrastante la porta d'ingresso. La porta d'ingresso girò gradualmente sui cardini. Nel riquadro aperto della porta, l'uomo riapparve senza il cappello, con la candela. Obbedì Steven al suo cenno? Sì, entrando piano, aiutò a chiudere e a mettere la catena alla porta e seguì piano nell'ingresso la schiena dell'uomo e i piedi felpati e la candela accesa oltre la fessura illuminata di una porta a sinistra. E con attenzione giù per una scala curva di più di 5 gradini nella cucina della casa di Bloom. Che cosa fece Bloom? Spense la candela previa forte espirazione di alito sulla fiamma. Avvicinò al focolare 2 sedie di betulla dal sedile a cucchiaio, una per Steven, con lo schienale alla finestra del seminterrato, l'altra per sé, quando necessaria. Si inginocchiò su un ginocchio e eresse all'interno della grata una pira di rami incrociati con estremità resinose e di carte multicolori e di poligoni irregolari del miglior carbone Abram a 21 scellini la tonnellata dai depositi della ditta Flower e McDonald, 14 Dollar Street. Appiccò il fuoco a 3 punti aggettanti di carta con un lucifero acceso, liberando in tal guisa l'energia potenziale contenuta nel combustibile, col far sì che i suoi elementi di carbonio e di idrogeno si unissero liberamente all'ossigeno dell'aria. A quali analoghe apparizioni? Pensò Steven. Ad altri, altrove, in altri tempi, che inginocchiandosi su un ginocchio o su due, avevano acceso il fuoco per lui. A fratel Michael, nell'infermeria del collegio della Società di Gesù a Clongowes Wood, Sallins, nella contea di Kildare. A suo padre, Simon Dedalus, nella stanza non ammobiliata della sua prima residenza a Dublino, numero 13 di Fitzgibbon Street. Alla sua madrina, Miss Kate Morcan, in casa della sorella moribonda Miss Julia Morcan, al 15 di Ashers Island, a sua zia Sara, moglie di Richard Golding, nella cucina del loro alloggio al 62 di Clanbrassil Street, a sua madre Mary, moglie di Simon Dedalus, nella cucina del numero 12 di North Richmond Street, la mattina della festa di San Francesco Saverio nel 1898. Al decano degli studi, padre Bat, nell'anfiteatro di fisica all'università, al 16 di Stephen's Green, Nord, a sua sorella Dilly, Delia, in casa di suo padre a Cabra. Che cosa vide Stephen alzando gli occhi all'altezza di una yarda a partire dal fuoco verso il muro opposto? Sotto una fila di 5 campanelli di servizio a molla spirale, una fune curvilinea, tesa tra 2 arpioni da parte a parte attraverso il recesso attiguo allo stipite del camino, da cui pendevano 4 fazzoletti quadrati formato piccolo, piegati, non attaccati consecutivamente in rettangoli adiacenti, e un paio di calze da donna grigie con rinforzi di filo di lisle, e piedi nella posizione naturale, fissato a tre forcelle dritte di legno, due alle estremità esterne e una terza al loro punto di congiunzione. Che cosa vide Bloom sulla cucina economica? A destra, fornello più piccolo, una casseruola di smalto azzurro. A sinistra, fornello più grande, un bollitore di ferro nero. Che cosa fece Bloom alla cucina economica? Spostò la casseruola sul fornello di sinistra, sollevò e trasportò il bollitore di ferro fino all'acquaio, allo scopo di attingere acqua girando il rubinetto per farla scorrere.